giravano e presidiavano i maggiori seggi del voto. Fortunatamente neanche ieri, nonostante le minacce della vigilia del primo turno del Mujahideen, e quindi di uno dei gruppi legati ad Al-Qaeda che ha occupato il nord del paese per oltre 10 mesi, non sono stati, queste minacce non hanno avuto seguito, non ci sono stati incidenti e neanche attentati, però l'allerta è stata massima anche ieri. Ecco, in attesa, Andrea, dei risultati che leggo si potrebbero sapere già domani, altri più prudenti dicono beh aspettiamo 2 o 3 giorni, ti chiederei i lumi per noi qui dall'Italia. Sono in ballo Boubacar Keïta e Soumaïla Cissé, che differenze ci sono fra le due figure? In massima sintesi ti chiedo una fotografia dei due principali candidati, e cosa può cambiare, se c'è qualcosa che può cambiare di grosso, se nel caso vincesse uno o piuttosto l'altro? Cioè abbiamo due potenziali presidenti con una politica sostanzialmente simile, fra l'altro vengono dallo stesso partito, o dobbiamo aspettarci delle differenze fra loro due? Guarda, da quello che è il sentimento generale della gente qua, oltre che degli analisti, di persone che conoscono bene entrambi i candidati, che sono entrambi espressione del vecchio regime, perché sono stati, Ibrahim Boubacar Keïta è stato primo ministro per 6 anni, mentre invece Soumaïla Cissé è una figura invece prestata all'economia, perché è stato ministro dell'economia per tanti anni anche lui. L'unica differenza grossa che c'è tra queste due figure, anzi l'unica differenza sostanziale, è che il primo, il favorito, Ibrahim Boubacar Keïta, è l'unico politico che non ha criticato il colpo di stato militare del 22 marzo scorso, cioè del 22 marzo 2012, sì. In cui il capitano Sanogo ha preso il potere con la forza, e per questo è stato il candidato scelto da Sanogo e dai golpisti da supportare in queste presidenziali. Tutt'altra storia invece per Cissé, che durante il colpo di Stato, come tutti i politici della vecchia guardia, avevano denunciato alla comunità internazionale la violazione della Costituzione e dell'ordine costituzionale durante il colpo di Stato militare, ed era stato addirittura a più riprese incarcerato dai golpisti. Questa è l'unica differenza sostanziale, per il resto entrambi sono due personaggi fedeli alla madre patria, ex madre patria coloniale francese, e sono entrambi formati come tutta la classe politica maliana e africana, dell'Africa francofona, a Parigi. E allora vedremo quanto il background e la storia di questi due candidati andrà a pesare sulla figura futura del presidente maliano. Grazie Andrea De Giorgio per essere stato con noi da Bamako, Mali. Buona giornata, buon lavoro a te. Buona giornata anche a voi, grazie mille. Ciao Giampaolo. Sénégal, cinéma, le Paris, demain je serai parti. La gare, Dakar, Bamako, Mopti, y'a pas de problème, tout va bien. Tu va bien, diceva Manu Chao, tutto va bene, tutto funziona, vediamo, ve ne daremo conto nei prossimi giorni. L'epilogo della vicenda delle elezioni in Mali, vediamo se si apre una reale nuova pagina democratica per l'importantissimo paese africano. E mentre cala il sipario su questa tornata elettorale, di cui vedremo conto nei prossimi giorni, io in questa puntata in Nessun Luogo Lontano vi accompagnerò in un viaggio tra sipari ma anche tra veli, e adesso vi porto in Siria oltre il velo. Difficile raccontare il conflitto siriano non soltanto

sembra usare i piedi di piombo. Di pochi giorni fa, poche ore fa, un nuovo accordo tra diplomazia statunitense e russa. Per fare cosa? Per incontrarsi a fine agosto, per poi lavorare sulla conferenza di Ginevra 2. Alberto Negri, Sole 24 Ore, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a tutti voi. Alberto, innanzitutto ti chiederei un commento. Ormai stiamo commentando la sempre solita, inesorabile lentezza della diplomazia internazionale di fronte ai numeri crudi che anche tu hai ascoltato. Che cosa secondo te può dare un'accelerata? Che a cosa può far mettere la quinta alle diplomazie internazionali per andare a risolvere davvero questo conflitto? Ma io credo che possa venire un'accelerazione soltanto da un accordo tra alcuni degli attori principali, cioè tra gli Stati Uniti, la Russia, l'Iran, che ha una grande influenza, che ha una grande influenza in Siria, e quel mondo arabo che ha finanziato e sostenuto i ribelli. Ma soprattutto viene da questo lato, quest'ultimo fronte, proprio quello degli insorti, e finora non si è stati in grado alla fine di avere una rappresentanza unitaria, perlomeno credibile, da portare a un tavolo di un negoziato. Fra l'altro, la diplomazia statunitense da tempo lamenta proprio la frammentarietà del fronte d'opposizione siriano. E poi c'è, Alberto, vorrei solleticarti invece su un altro fattore, chiamiamolo il fattore K. Qualche giorno fa il presidente del Kurdistan iracheno, Barzani, ha detto che le sue milizie peshmerga sono pronte a intervenire in Siria con tutti i mezzi se sarà dimostrato che i curdi in quel paese sono sotto la minaccia delle milizie jihadiste legate ad Al-Qaeda. Questo scenario è verosimile secondo te o si tratta di dichiarazioni politiche? E se sì, quanto può andare a complicare il già complicato scacchiere siriano? No, questo scenario si è già verificato. Si è già verificato, per questo che io ho sempre parlato in quest'ultimo anno e mezzo ormai di ex Siria e non più di Siria, come si parlava non più di Jugoslavia ai tempi delle guerre balcaniche, ma di ex Jugoslavia, perché ormai gli attori in campo sono talmente numerosi, anche quelli esterni, che rendono quasi impossibile l'ipotesi di rimettere insieme questo paese in uno stato unitario. La questione curda è sicuramente una delle più brucianti, se non forse la più bruciante. Il sostegno di Barzani, che ricordiamolo è presidente del Kurdistan iracheno, che a sua volta è quasi un'entità ormai staccata e separata dal governo centrale di Baghdad in Iraq, è assolutamente verosimile, anzi si è già verificata, perché proprio da Barzani e dal Kurdistan iracheno sono arrivati alcuni dei finanziamenti più importanti per sostenere la guerriglia curda che si è scontrata prima con il regime di Assad e poi in seguito con i gruppi radicali islamici. A proposito di aiuti, è interessante anche sottolineare come la notizia risale alla settimana scorsa, quella famosa fornitura di missili S-300 che dovevano arrivare da Mosca sia stata congelata, quindi Damasco non li riceverà, e se sono vere le indiscrezioni di stampa che arrivano dalla Russia, non le riceverà fino all'estate dell'anno prossimo. Ma vedi, qui hai toccato uno dei punti più sensibili, che coinvolge praticamente non tutto lo scacchiere internazionale e ovviamente i rapporti con Israele, ma anche con gli Stati Uniti. Questi sono missili importanti, missili di lunga gittata, missili che possono colpire Israele, non che possono essere utilizzati soltanto contro la guerriglia anti-Assad. Quindi possono cambiare notevolmente anche in maniera sensibile gli equilibri strategici regionali, tenendo presente che Israele ha il fronte aperto con gli Hezbollah libanesi da una parte e con i palestinesi dall'altra. E tra l'altro proprio questa fornitura di missili è stata un po' utilizzata proprio da parte russa per fare pressioni sugli americani affinché in qualche modo il governo transitorio non esclude del tutto i rappresentanti del vecchio regime. Quindi questa fornitura dei missili, che ogni tanto viene adombrata, ogni tanto viene ritirata, serve in qualche modo anche questa come strumento al tavolo del negoziato. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Nessun luogo lontano quest'oggi solleva un po' di veli, alza e fa scendere un po' di sipari in un viaggio che vi porterà poi alla fine di questa trasmissione fino in Tunisia. Ma adesso siamo a parlare di Siria con Alberto Negri, che ci ha spiegato quanto complesso sia il ruolo dei tanti attori internazionali coinvolti. Alberto citava all'inizio del suo intervento l'Iran. Ebbene, non dobbiamo dimenticare che il nuovo presidente Rouhani era stato salutato come un moderato dalla comunità internazionale, poi però quelle affermazioni sullo Stato di Israele avevano fatto ripiombare i pessimisti nel loro stato d'animo più nero. Allora la domanda per Alberto Negri è: visto che l'Iran può giocare davvero un ruolo fondamentale nella partita siriana, quanto questo nuovo presidente può cambiare rotta rispetto al precedente, rispetto ad Ahmadinejad? Ma io direi che più che di un governo moderato riferito al nuovo esecutivo iraniano di Rouhani, parlerei di un governo pragmatico. Qual è il primo obiettivo di Rouhani? Il primo obiettivo di Rouhani che gli è stato fidato è quello di risollevare l'economia. Risollevare l'economia vuol dire assolutamente trovare un modo per alleggerire le sanzioni. Alleggerire le sanzioni vuol dire trovare un accordo sul nucleare. Da questo punto di vista, secondo le informazioni che ho da questo nuovo esecutivo, ci sono delle intenzioni serie. Intenzioni serie che derivano già dal fatto che il dossier nucleare sia stato trasferito al Ministero degli Esteri, mentre prima stava al Consiglio di Sicurezza Nazionale, e che Khamenei, la guida suprema, che è poi l'uomo che ha, come sempre, l'ultima parola, sembra in qualche modo favorevole a trovare un accordo. E a questo punto il condizionale è importante. Saranno anche decisivi i primi 100 giorni di questo governo, perché non dovrà fare mosse false all'esterno e dovrà in qualche modo convincere all'interno che un accordo internazionale è assolutamente necessario alla sopravvivenza del paese. E tu dici che una volta compiuto questo passo potrà anche muoversi sul dossier siriano con una diversa anche autorevolezza? Sulla Siria gli iraniani hanno questa posizione. Come sapete, l'alleanza tra Damasco e Teheran è ormai storica, ha più di 34-35 anni dai tempi della rivoluzione. I legami non sono soltanto di tipo politico, ma anche di tipo religioso e in qualche modo ideologico. Ebbene, la Siria è fondamentale per l'asse sciita che parte da Teheran, passa per il governo sciita di Baghdad, da Damasco e arriva fino agli Hezbollah in Libano. Però gli iraniani sanno anche che forse devono trovare una soluzione di compromesso, perché questo regime, così com'è, non potrà riavere mai più probabilmente il controllo dell'intero paese. Grazie allora Alberto Negri per la tua analisi. Buona giornata, buon lavoro. Buona giornata a voi. Facciamo calare il sipario sul dossier siriano per quanto ci riguarda, poi purtroppo la crisi va avanti, come avete sentito, e ve ne daremo conto nei prossimi giorni. Abbiamo iniziato a parlare di Siria parlando di veli, parlando di quelle tende che Franco Pagetti ha fotografato, e mi piaceva in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano, in cui alziamo e solleviamo tende su vari scenari, alzare il sipario su un teatro a Tunisi. De wereld is één groot theater, we hebben touwtjes niet in handen, worden gemanipuleerd door hogere instanties onbewust. Dus wij hebben poppen aan het dansen, want de wereld wankelt en de mens loopt daarvoor weg. Kijk verder dan je neus, lang is het, doe niet alsof je neus bloedt bij het zien van dat bloedbad na 11 en was aan leugen. Om een oorlog te beginnen en geld. E le note del rapper tunisino Sadak Sali ci accompagnano all'ingresso di un teatro. Siamo in centro, siamo a Tunisi, poco distante da Avenue Bourguiba. Il teatro si chiama Étoile du Nord e ci facciamo accompagnare meglio, mano nella mano, da un fotografo che lo ha visitato di recente. Gianni Cipriano, buongiorno. buongiorno. Allora, Gianni Cipriano, fotografo freelance, ha pubblicato una storia su questo teatro sul New York Times e ha fotografato che cosa? Non è solo un teatro, Gianni, non è solo forse un'oasi al riparo dai turbolenti giorni che la Tunisia sta vivendo e anche un ritrovo per intellettuali, per artisti. Aiutaci meglio, tu che l'hai fotografato, a fotografare questa strana realtà nel cuore di Tunisi. Come dicevi tu, il teatro Étoile du Nord, che non è soltanto un teatro, è anche un caffè che si chiama Caffè Étoile du Nord, appunto, si trova appunto nel cuore di Tunisi, a pochi passi dal Ministero dell'Interno, dove pochi minuti prima avevo fotografato una conferenza stampa relativa all'uccisione di un leader dell'opposizione, Mohamed Brahmi. Si trova a pochi passi dal ministero, si entra da questa porta più o meno anonima e ci si ritrova in questo spazio colorato, eterogeneo, dove si possono incontrare ex rivoluzionari, ragazzi che frequentano il posto sia per partecipare alle rappresentazioni teatrali, oppure per navigare su internet o degustare una limonata, un panino col tonno. Quindi si entra nel caffè, diciamo l'ingresso, cioè si entra appunto, si entra in questo caffè e le quattro pareti sono divise così, diciamo sulla sinistra c'è una ragazza che serve del tè o delle limonate, la parete opposta e quella successiva ci sono i computer, nella terza parete c'è questa grande libreria dove si può prendere a prestito una qualsiasi pubblicazione, e poi questi tavolini. Poi c'è un corridoio che si trasposta in un altro ambiente, cioè in questo ambiente, un primo ambiente del caffè dove ci si può sedere per rilassarsi, si passa in questo altro ambiente che invece è lo spazio teatrale, al buio, con una luce bluastra, con un centinaio di tavolini, direi, dove il direttore del teatro, Nourdin, un sessantenne che ha vissuto per 30 anni a Parigi, che negli anni 90 ha deciso di tornare a Tunisi per dare ai tunisini quello che aveva imparato in 30 anni di esperienze di teatro all'estero, si arriva in questo altro ambiente dove avvengono queste, diciamo, rappresentazioni teatrali sperimentali. Quindi durante il giorno sì, è uno spazio aperto, libero, dove chiunque può accedere e sedersi, e poi la sera ci sono le rappresentazioni e le prove, sì, a partire dalle 6. Fra l'altro, Gianni, è interessante leggere il pezzo che hai realizzato con la giornalista del New York Times, perché Nureddin El-Atti, che è appunto il direttore del teatro di cui tu ci regalavi il ritratto pochi istanti fa, e insomma il suo slogan è andare il più possibile al di là del convenzionale. La scuola parigina lo ha formato, per così dire, per bene, e quello che lui cerca di combattere è in qualche modo la divisione netta, no, che esiste fra la messa in scena teatrale e poi il pubblico, perché una volta che cala il sipario, è difficile che vi sia il contatto fra il direttore di scena, fra i diversi attori, e invece quello spazio che ci stavi raccontando tu continua a essere un luogo di ritrovo, di discussione, dove anche Nureddin e gli altri attori ritrovano la platea, ritrovano il pubblico, senza fare facile retorica, però forse tu che venivi dalla conferenza stampa dopo l'assassinio di Brahimi, verrebbe da dire che la Tunisia ha proprio bisogno di questi spazi di discussione, di queste aperture, no, al dialogo. Sì, no, ne ha proprio bisogno. Il peccato è che appunto è un luogo chiuso, che è abbastanza anonimo e che bisogna proprio andarlo a cercare. Poi cioè, dicevi che è un'oasi perché durante il giorno lì, cioè lì l'ho visitato fine luglio, sì, in pieno Ramadan, e si passava dalle strade vuote, deserte, da negozi con le saracinesche abbassate da partire dalle 2 del pomeriggio, a questo spazio dove ci si ritrova, si discute, dove l'atmosfera, cioè dove si fuma anche. Quindi dopo mezz'ora passata in questo spazio, cioè, c'era anche difficoltà a respirare. Diciamo, parlando con Nureddin, diciamo, c'era anche un po' di, come dire, mi vengono pure le parole in italiano perché poi sono stato lì recentemente, quindi si parlava francese. Un po' di rammarico, ecco, per quello che sta succedendo in Tunisia, e mi dicevo per l'appunto che un po' si è perso lo spirito che si respirava 2 anni fa, immediatamente prima e dopo la cacciata di Ben Ali. Ora in questi giorni appunto a Tunisi si respira un'altra aria, no? Cioè, sempre passato dalla conferenza stampa al Ministero dell'Interno, alle proteste davanti al Ministero dell'Interno, davanti all'Assemblea Costituente, dove le persone, i manifestanti chiedevano lo scioglimento dell'Assemblea Costituente perché non contenti di quello che sta attraversando, di come viene gestito questo periodo, sì, post-rivoluzionario a Tunisi. Quindi è un momento molto interessante, in cui si sta, alcuni coscienti si stanno risvegliando 2 anni dopo. Il teatro è sicuramente uno di quei luoghi, per definizione, insomma, sì, il risveglio delle coscienze. Esattamente, no? Lì è un po' una nicchia, ci si ritrova, si discute, si legge, si naviga, e attraverso il teatro, il teatro sperimentale che Nureddin propone, si cerca di rappresentare attraverso l'arte, in questo caso il teatro, quello che avviene al di fuori di quelle porte. Grazie allora a Gianni Cipriano per questa fotografia che ci hai regalato di quest'oasi, chiamiamola così, Étoile du Nord, questo teatro di Tunisi, baluardo di creatività in mezzo ai tumulti tunisini. Grazie Gianni, buona giornata, buon lavoro. Potete vedere le sue fotografie su giannicipriano.com. Adesso postiamo il link su Facebook. Grazie Gianni, alla prossima. Ciao. E poi Gianni citava il fatto di quelle proteste, l'Assemblea Costituente che poi si è sciolta. Intanto le agenzie ci consegnano la notizia di 1.600.000 firme di Tamarrad Tunisi, il movimento nato ispirandosi al movimento quello egiziano. E poi l'altra notizia interessante, Amina si è fatta rivedere, Amina, tra i manifestanti, tra le tende di piazza del Bardo. L'agenzia precisa che sfoggia capelli ramati dopo quelli biondi dei giorni scorsi dell'arresto e del processo, perché l'avete sentito, Amina è libera da alcuni giorni, appunto, ha rifiutato di parlare coi giornalisti, ha scambiato più di una frase con i manifestanti. Siamo quasi in chiusura, allora i titoli di coda. Che prevedono naturalmente i ringraziamenti a Miren Lucchetti e Isotta Scenna che hanno confezionato con me questa puntata, e i ringraziamenti ovviamente anche a Gianmarco Ferronato che l'ha musicata. A voi per essere stati all'ascolto. Vi ricordo che l'appuntamento è ogni giorno alle 13.15 qui su Radio 24 in diretta da Viale Monterosa. E allora domani, di nuovo, Nessun Luogo Sarà Lontano. Intanto un saluto da Gianpaolo Musumeci.